Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Sotto le stelle di Parigi di Klaus Drexel al cinema da giovedì 25 novembre 2021. Ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao, grazie. Raccontiamo la storia. Sotto le stelle di Parigi racconta la storia di Christine, che è una senza tetto che vive per le strade di Parigi ed è completamente immersa nella sua routine, quindi lei vive in questo piccolo rifugio che è una sorta di rimessa per degli operai, e alla mattina si sveglia, inizia a girovagare per la città, per le vie di Parigi, va alla mensa e alla sera torna nel suo rifugio, un po' si rifugia nei ricordi di una vita passata, della quale le sono rimasti pochi ricordi, pochi frammenti. Una notte, mentre inizia a nevicare, perché siamo appunto in inverno oltrato, improvvisamente sente dei rumori che la svegliano, si affaccia all'ingresso del suo piccolo rifugio e lì davanti trova un bambino di circa 8 anni, un po' spaventato ovviamente perché è lì tutto solo, non parla la lingua di Christine. E lei inizialmente un po' lo rifiuta, perché lei è abituata a essere da sola, non vuole nessuno accanto a sé. Quindi inizialmente lo rifiuta. Poi però, ovviamente, ci ripensa un po' e torna fuori, il bambino è ancora lì che l'aspetta. E lei scopre che questo bambino si è perso, è stato separato dalla madre, che deve essere rimpatriata, perché il bambino è di origine eritrea. Quindi, mossa un po' da un sentimento materno che lei probabilmente ha un po' seppellito, decide di prendersi cura di questo bambino e di fare il possibile per aiutarlo a ricongiungersi con la madre prima che venga rimpatriata. E quindi i due si avvieranno per le strade della città e incontreranno diverse persone che cercheranno alcune di aiutarli, altre cercheranno invece di ostacolare il loro percorso. Diciamo che entrambi saranno uniti da questa condizione marginale e riscopriranno insieme il calore di umanità che entrambi credevano perduta. Cosa ti è piaciuto di questa pellicola? È un film molto, molto diretto, molto toccante. Ci è piaciuto molto il fatto che racconti di due realtà, quella dei clochard, ma anche quella delle persone immigrate, che senza patetismi in questo film vengono mostrate con un'immagine un po' diversa, vengono un po' raccontati come se fossero due personaggi di una fiaba. Ci sono piaciuti molti gesti, i silenzi anche del film, perché è un film dove, sai, hai due persone, una è una signora piuttosto anziana che non è abituata a parlare, l'altro un bambino molto giovane che non conosce la lingua del paese in cui si trova. Però il regista con dei semplici gesti, dei semplici sguardi e anche con poche parole è riuscito comunque a creare una storia veramente molto toccante, che appunto racconta di una realtà che spesso viene un po' trattata con superficialità. Drexel in precedenza ha realizzato un paio di documentari, giusto? Sì, esatto. Drexel è il suo primo lungometraggio di finzione. Lui è un regista di documentari e infatti il suo lavoro precedente è un documentario sui clochard parigini che si chiama Au bord du monde, quindi ai confini del mondo. E in questo documentario lui aveva seguito le vite di alcuni clochard parigini, tra cui una clochard che si chiamava appunto Christine, che esiste veramente, che vive a Parigi, ed è stata questa clochard che ha dato modo al regista di ispirarsi e scrivere il personaggio della Christine di Sotto le stelle di Parigi. E la stessa Catherine Frot, che la interpreta, una volta che ha visto il documentario, è rimasta molto colpita da questo personaggio, da questa donna che da tantissimi anni vive da sola per le strade della città, e insieme la Klaus Drexel ha deciso di appunto realizzare questo film. Dove altro è uscito a livello globale? È uscito ovviamente in Francia, essendo un film francese ovviamente, e poi è stato venduto in tantissimi paesi europei, dall'Inghilterra alla Spagna, alla Germania. proprio perché si tratta di una storia universale che qui chiaramente ha il fascino di Parigi, certo, però è una storia che potrebbe effettivamente essere ricollocata in qualsiasi città, perché queste realtà esistono in ogni paese e quello che il film riesce a comunicare è comunque un'accessibilità dei personaggi a una storia che effettivamente tutti potrebbero sentir parlare. In quante sale? Usciamo in più di 60 sale in tutta Italia e se siete curiosi di trovare il cinema più vicino a voi dove poter vedere Sotto le Stelle di Parigi, sul nostro sito che è officineubo.com c'è una sezione dove c'è tutto l'elenco delle città in cui il film viene proiettato e anche sulla nostra pagina Facebook, sempre di Officine Ubu, potete trovare l'elenco completo delle città in cui vedere Sotto le Stelle di Parigi. Il film Sotto le Stelle di Parigi al cinema da giovedì 25 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. A presto. Grazie a voi. Grazie a voi come sempre. Ciao Federico, ciao. Con Claudio Puglisi dello Scrittoio per il film La Festa Silenziosa, distribuito da Double Line in collaborazione con lo Scrittoio, al cinema da giovedì 25 novembre 2021. Bentrovato! Bentrovati a voi. Ce lo racconti? È un film argentino, un thriller nello specifico, che racconta le vicende di questa donna che nella serata precedente, nel giorno delle sue nozze, subisce una violenza e si trova al bivio dovendo decidere se reagire, vendicarsi per la violenza subita oppure se dover sottostare quanto subito, come spesso purtroppo vediamo capitare. La decisione è quella di vendicarsi e di lì si sviluppa tutta una storia che fa sì che questo film appunto poi possa essere ascritto alla categoria thriller o noir. Insomma, sì, c'è la suspense triptica del thriller, ma anche tante caratteristiche proprie del noir. Quindi un film adatto ad essere apprezzato non solo dal puro cinefilo, che è l'utente classico del cinema distribuito da Double Line, pensiamo a Koreeda, pensiamo a Daisy di Tsai Ming-liang, in questo caso non è proprio cinema d'autore con la maiuscola, ma è ottimo cinema, ma anche adatto ad essere apprezzato da un pubblico più ampio di quello proprio del cinefilo puro. Dove lo avete visto e cosa vi ha convinto? Il film è stato proposto da un distributore internazionale e ha convinto perché poteva essere, fra l'altro, adatto proprio ad essere presentato in una giornata come l'uscita non è casuale il 25 di novembre, perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di conseguenza questo film poteva essere proprio utile per sensibilizzare su un tema così delicato. Tanto è vero che numerosi cinema hanno deciso di programmarlo proprio il 25 novembre o in prossimità del 25 novembre proprio per proporre agli spettatori un'iniziativa di sensibilizzazione per un tema così importante. Questo film si presta particolarmente, come forse dicevo prima, a parlare proprio di questa scelta che spesso donne che subiscono violenza si trovano di fronte, quindi cercare giustizia, farsi giustizia con le proprie mani, denunciare. Questa donna sceglie una strada abbastanza particolare, non è detto che sia quella corretta, però è sicuramente una delle possibilità. L'attrice protagonista, fra l'altro, l'attivista femminista in Argentina, ci ha tenuto particolarmente a lavorare a questo film, ci ha mandato anche un suo video contributo per le sale che vogliono montarlo prima della presentazione, in cui spiega proprio quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a lavorare a questo film e perché è orgogliosa di averlo fatto. Di questo regista cos'altro sappiamo? Ha lavorato per progetti sempre che si sono concentrati su tematiche abbastanza scottanti, non è un regista di fama internazionale, questa è un'altra delle caratteristiche che noi in particolare andiamo sempre cercando, abbiamo sempre curato molto lavori di registi che si siano espressi con opere prime e seconde, è un regista non noto al grande pubblico in Europa sicuramente, però siamo sicuri che riuscirà a farsi notare. Ha avuto un'uscita internazionale fino a questo momento? Sì, è uscito in altri paesi, sempre con le difficoltà del caso dovute alla pandemia, ovviamente. È un film che è stato terminato un anno e mezzo fa, per cui proprio nel periodo più disgraziato possibile per il cinema, quindi penso che da qui in avanti si giocherà molte delle sue carte, anche se, devo dire la verità, poi per quello che riguarda il mondo latinoamericano ha una sua vita molto diversa da quella che si sviluppa nel mondo europeo o negli Stati Uniti. In quante sale? Come in tutti questi film, le sale le costruiremo lungo il percorso. Partiamo in prima battuta, proprio in prima giornata, con una quindicina di sale, ma sappiamo già che se ne uniranno molte di più perché la richiesta c'è stata. Il problema in questo momento, come tutti gli esercenti sanno e lamentano, è la grande quantità di film che stanno uscendo, in particolare poi con oggi esce il film di Sorrentino che ha occupato tantissimi slot nelle sale, giustamente le sale, quelle che sono riuscite ad averlo peraltro, non potevano rinunciare. È un film che richiede tutti gli spettacoli possibili nel corso della giornata, quindi tutte le distribuzioni un pochino più piccole si devono adattare all'uscita. Il film La Festa Silenziosa al cinema da giovedì 25 novembre 2021. Saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello Scrittoio che lo distribuisce in collaborazione con Double Line. A presto! A presto a voi e grazie ancora come sempre. Grazie. Con Pappi Corsicato, regista del documentario Pompei, Eros e Mito, al cinema dal 29 novembre al 1 dicembre 2021. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Che racconto è questo? La cosa, tra virgolette, originale di questo documentario su Pompei, che come ovviamente si sa sono stati fatti tanti, è che è tutto attraverso uno sguardo femminile, cioè nel senso si racconta questo mondo attraverso la figura della donna, e quindi questo lo rende abbastanza particolare, visto che di solito se si parla sempre di figure maschili, la donna per un po' passa in secondo piano. Qua invece è molto centrato sul mondo femminile a 360 gradi, nel senso che le donne imprenditrici e anche di altra natura, anche nello stesso nel mito di cui si parla molto nel documentario, la figura femminile è al centro dell'argomento. Quindi questo secondo me ha una visione particolare per raccontare Pompei e il mito in quell'epoca. Come era nato il progetto? Mi è stato chiesto, mi è stato commissionato e io ovviamente avevo già girato delle piccole cose qui a Pompei e in quanto napoletano e amante poi di quel sito ho accettato ovviamente subito e appunto insieme agli autori abbiamo trovato questa chiave di lettura del documentario. Come avete deciso di strutturarlo? Intervengono parecchie personalità, da tutto allo storico, lo stesso ex sovrintendente Massimo Sanna, ed è una psicanalista, cioè cercando ovviamente di cogliere i vari aspetti e del mito e delle figure che raccontiamo. Quindi appunto anche lì di non avere tanto uno sguardo veramente storico, ma anche capire di interpretare come veniva letto, interpretato appunto il mito e l'eros in quel periodo sotto appunto altri punti di vista. Quindi è veramente molto articolato la narrazione e in più poi io ho cercato di rendere anche lì nelle ricostruzioni dare una chiave più contemporanea, non sono le solite ricostruzioni in costume peplum, ma sono vestiti con abiti contemporanei anche per facilitare una lettura più moderna di quel periodo storico e appunto del mito. Effettuando le riprese e poi ascoltando interlocutori e interlocutrici, che impressioni ne hai ricavato? Grazie a Dio erano tutte persone con uno sguardo, tra virgolette, anche ironico e di grande conoscenza dell'argomento, quindi hanno aiutato in maniera naturale a rendere il tutto molto fruibile e molto intrigante, ma anche con una forte empatia a quello che è il contemporaneo, quindi non vedere una cosa che sembra appunto una cosa meramente didattica. E quindi c'è anche appunto un approccio molto leggero, non superficiale ma leggero rispetto ai veri argomenti, anche a volte cruenti o violenti che all'epoca erano in normale amministrazione. Ecco. La scelta di quest'uscita temporanea? La policy è il metodo Next Digital che loro appuntavano, che erano questi eventi di 3 giorni che sembrano funzionare molto bene. Questo è un documentario che doveva uscire un anno fa, poi con il lockdown ovviamente sono state chiuse le sale e quindi si è rimandato di un anno, quindi finalmente esce, quindi sono contento che esca nelle sale. Poi avrà una distribuzione televisiva su Sky, ma questo è il secondo momento. In quante sale? C'è in 300 sale, anche in tutta Italia, anche in città di provincia che non conoscevo, ecco. Quindi sarà su tutto il territorio. Mi sembra una bella cosa comunque, una bella uscita per un documentario. Il documentario Pompei, Eros e Mito, al cinema dal 29 novembre al 1 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Pappi Corsicato. A presto! Grazie a voi, a presto. A presto. Con Cecilia Fasciani, regista del documentario I'm Still Here, al cinema da mercoledì 1 dicembre 2021. Ben trovata. Ciao, grazie, un saluto a chi ci ascolta. Lo raccontiamo? Il progetto nasce più di un anno fa insieme all'associazione Plus, persone LGBT sieropositive di Bologna, con la quale abbiamo iniziato a collaborare come SMK Factory, e nasce un po' sull'idea di raccontare queste storie sfruttando un po' i 40 anni dalle prime diagnosi di quella che poi sarebbe stata riconosciuta come AIDS, e chiaramente anche i 10 anni della nascita dell'associazione, perché appunto Plus nasce nel 2011 a Bologna. E quindi appunto un po' l'idea era di sfruttare queste date. All'inizio ci siamo confrontati tantissimo, insomma, con i protagonisti proprio dell'associazione, per riuscire a costruire una narrazione che rimettesse un po' al centro le storie di vita, le lotte e le battaglie che i membri dell'associazione hanno portato avanti in questi 10 anni. Però chiaramente con una prospettiva storico-politica ben precisa, che appunto andasse un po' a anche analizzare i 40 anni di pandemia, come sono cambiate anche le vite delle persone a seguito comunque di scoperte scientifiche, di nuovi farmaci, metodi di prevenzione, appunto come la PrEP. E quindi appunto unendo un po' tutte queste cose siamo riusciti a costruire questo documentario. Una cosa che ci tengo anche a dire è che la partecipazione di Paolo Gorgoni e di Paola Lopez ha arricchito moltissimo tutta la narrazione, tutta l'idea che ha strutturato un po' il documentario, perché appunto con le sue performance artistiche, con la sua performance art, insomma stiamo confrontandoci nel corso anche proprio della scrittura del documentario, penso abbia arricchito molto appunto il tutto, perché da, come lui spiega benissimo nel documentario, i suoi momenti insomma di elaborazione personale sono poi diventati anche di rivendicazione collettiva, come per esempio con il collettivo Viral a Lisbona. Appunto lui era a Lisbona, aveva creato il personaggio di Paola Lovely, e il 1 dicembre dell'anno scorso sono riusciti a fare questa performance in piazza, c'è Visible Together, che viene insomma da tutto un percorso di Paola Lovely che insomma chi vedrà il documentario scoprirà. Com'è lo stato della malattia e della cura oggi in Italia? Come dicono chiaramente i protagonisti del documentario, soprattutto dopo adesso la situazione della gestione del Covid non è idilliaca come situazione, anche combattere la malattia da un punto di vista anche sociale, combattere lo stigma eccetera, plus penso sia appunto una cosa fondamentale per riuscire a sconfiggere HIV. Proprio per questo nasce appunto, come dicono anche nel documentario, il DLQ Checkpoint, che poi appunto da un punto di vista anche epidemiologico i dati su Bologna rilevano appunto la loro presenza in termini di prevenzione riuscita. Nel mondo oggi, 40 anni dopo, si contano ancora circa 38 milioni di persone che vivono con HIV. In Italia le persone che hanno scoperto di essere sieropositive nell'ultimo anno sono maschi nell'80% dei casi, e per la prima volta negli ultimi anni la quota di diagnosi attribuibili a MSM, quindi maschi che fanno sesso con maschi, è pari a quella attribuibile ai rapporti eterosessuali. La cosa più preoccupante sicuramente chiaramente è che le diagnosi tardive continuano ad aumentare e chiaramente le diagnosi tardive sono poi quelle che compromettono la buona riuscita della terapia. Plus ha portato avanti delle battaglie molto importanti, anche per esempio come si vede nel documentario ICASA nel 2018, per cercare proprio di spingere con l'implementazione della PrEP in Italia, che ha ancora dei costi molto elevati, insomma non è affatto accessibile a tutti. La PrEP è appunto una terapia pre-esposizione che protegge da HIV ai livelli insomma anche più alti del preservativo. Quindi appunto un po' la situazione è questa e chiaramente c'è bisogno di ragionare parecchio attorno a queste cose, perché soprattutto oggi che viviamo in una situazione di una nuova pandemia globale, necessariamente non si possono dimenticare tutta un'altra serie di situazioni continuate ad essere studiate, a cercare sempre nuove soluzioni. E una delle scoperte scientifiche più importanti che Plus cerca sempre di portare a conoscenza del pubblico più ampio per combattere lo stigma è quella di U uguale U, quindi non rilevabile, non trasmissibile. C'è una persona che vive con HIV ma che è in terapia efficace e quindi in viremia non rilevabile non può trasmettere il virus, quindi questa penso sia evidente la dirompenza di una scoperta del genere, e quindi appunto è importante che di queste cose se ne parli, che si conoscano, e questo è anche uno degli obiettivi ovviamente centrali del documentario. Ripercorrendo questa storia quarantennale e coprendo anche le attività delle realtà che se ne occupano, che impressioni ne hai ricavato? È una situazione per cui ci sono state veramente tantissime sfaccettature e appunto credo che come società non si è riusciti a ragionare e rielaborare anche appunto i grandi cambiamenti che sono poi avvenuti nel corso della pandemia. Una cosa molto interessante appunto di cui parlano i protagonisti, Sandro Mazzioli, il presidente di Plus Bologna, Stefano Pieralli, Michele Degli Esposti, insomma ci tengo anche a citare anche loro, parlano anche un po' di anche il movimento LGBT che all'inizio degli anni 80 si è iniziato un po' a strutturare e poi appunto tutto quello che è successo con l'arrivo di HIV anche in Italia. Sicuramente, come spiega anche Stefano Pieralli nel documentario, HIV si inserisce comunque in un contesto in cui appunto era molto difficile riuscire a gestire la situazione. Poi è arrivata la nascita di Lila per dare appunto la sola una struttura ad hoc, la lotta contro l'AIDS, nel movimento gay, insomma, anche le varie discriminazioni che avvenivano nei confronti delle persone che vivono con HIV all'interno appunto del movimento gay stesso. Quindi insomma, sicuramente lavorare a questo progetto mi ha fatto capire le varie sfaccettature, le mille complicazioni che hanno vissuto le persone, cioè delle storie di vita delle persone di questi decenni che appunto sono state una storia davvero complicata, ecco, e sicuramente il modo in cui è stata affrontata rispetto alle dinamiche anche globali, delle varie scoperte della ricerca, dei finanziamenti alla ricerca, insomma si vedono anche le differenze rispetto ad oggi con il Covid-19. Che distribuzione sarà? La distribuzione curata da distribuzioni dal basso sarà nelle sale, anche fuori dalle sale, con proiezioni ovviamente con associazioni sul territorio, il più possibile insomma cercare di far girare il documentario in questo senso, sicuramente è una distribuzione festivaliera, poi chiaramente tutto quello che verrà in termini di broadcasting o video on demand, ma questo insomma proprio in una fase molto successiva a questa prima fase di distribuzione teatrale e non teatrale. Il documentario I'm Still Here al cinema da mercoledì 1 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Fasciani. A presto! Grazie a voi, a presto! Registi Flavia Mastrella e Antonio Rezza sul loro film Samp, l'epopea rituale di un killer che uccide le tradizioni, al cinema da sabato 27 novembre 2021. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? È la storia di un killer che uccide le tradizioni e si innamora di donne quasi inesistenti, cioè incompiute. Io non sono in grado di raccontare le trame di quello che facciamo, come ogni autore dovrebbe. Choran diceva non c'è niente più penoso di parlare, di descrivere quello che si fa, quindi se l'opera non ce la fa da sé vuol dire che non è una buona opera. È chiaro che prima essendo una cosa radiofonica, non posso esimermi dal dire qualcosa sul film. Sicuramente è uscito un articolo molto bello che parla di un manifesto politico nei confronti della libertà, cioè un film che va contro ogni regola effettiva del cinema, anche contro la tempistica, perché è stato realizzato attraverso un arco di tempo lunghissimo, insomma 18 anni tra 19, tra la prima gestazione e l'ultima, che è finita qualche settimana fa. Quindi è una grandissima libertà, è come il cinema non si fa, è però qualcosa di superiore al cinema che si fa, e non è che lo dico io perché l'abbiamo fatto noi, ognuno deve essere consapevole del valore che ha, e questo film doveva stare in concorso a Venezia, doveva concorrere, era alle giornate degli autori, che è la sezione secondo noi più importante del festival, che è quella autoriale, quella che dà spazio soprattutto a chi è meno protetto, però io avrei voluto questo film vincesse un altro Leone d'Oro, e lo dico proprio senza né immodestia, poi chi lo vede e lo può dire, tanta gente è uscita, è andata via da Venezia dicendo che è il più bel film che mai ha visto a Venezia, non è che lo diciamo noi, avrei voluto vincere insieme a Flavio un altro Leone d'Oro, poi insomma, lo verranno a vedere quando uscirà, se mai uscirà, se sto dicendo, se sono uno smargiasso oppure quello che dico è vero. Il titolo? Il titolo è dedicato a San Paolo, che però non è mai menzionato nel film, non se ne parla proprio, è un titolo che nacque così, che Fabio aveva fatto dei sopralluoghi nel 2001, nei luoghi dove San Paolo era stato, ma poi San Paolo non c'entra niente nel film, per fortuna, però il titolo è rimasto. Bello anche questo, il titolo è qualcosa di completamente strano al film. Anche se è un suono, se in cui uno crede è un suono, no? Io un suono, Paolo è un suono, i santi sono suoni. È un progetto che ha impiegato tanti anni prima di essere ultimato. Sì, è un lavoro travagliato, anche perché è fatto in modo molto audace. L'immagine è un'immagine antica, quindi non è questo 4K tutto tornito, è un'immagine molto poetica. Poi le inquadrature sono anticonvenzionali, il colore, il modo di portare avanti la storia, e questo in 20 anni l'abbiamo maturato piano piano, questi salti di tempo attraverso l'immagine, attraverso proprio il tempo che è passato. L'abbiamo preso varie volte in mano la telecamera per continuare sempre. Com'era stata l'idea di partenza? Eravamo stati in Puglia e c'era sembrata un'atmosfera veramente quasi aliena, bianco, questa architettura così carnale, e quindi abbiamo deciso di fare poi questa storia. Da parte mia c'è stata una folgorazione di un libro di Ernesto De Martino, La terra del rimorso. Rispetto all'idea iniziale, come si è trasformato nel corso di questi quasi 20 anni? Anche quando lo avete ripreso in mano? Ma è rimasto presso di quello che era, e tutti ci dicono com'è possibile che un film di 20 anni fa sia così contemporaneo. È facile rispondere, perché noi non trattiamo la contingenza, noi parliamo di altro, quindi quello che facciamo ci sopravviverà, già ci sta sopravvivendo. Credo che il segreto sia questo, non parlare della realtà contemporanea a vivere. E poi tutto il quadro di Bacon è immortale, pure la Cappella Sistina è importante, perché la pittura e la musica non possono parlare della realtà, è la parola che lo dico, la musica non possono parlare della realtà contingente, se lo fanno insomma sono varie traspedizioni, trasfigurazioni, purtroppo la parola invece il significato ci legano a una realtà che è quella che viviamo, noi usiamo direi la parola, le immagini, come un pittore usa i colori, come usa la musica, ecco perché ci sopravvive. Però mi piacerebbe insomma leggere queste cose, cioè non le devo dire io, insomma noi dobbiamo fare film, dobbiamo fare recensioni a noi stessi, dobbiamo fare la critica, e comincia a diventare negli anni un lavoro sfibrato. Come mai il percorso è stato così lungo? Perché avevamo rinunciato a fare i film, e poi a un certo punto c'era poca libertà nel cinema in quel momento, che era il 2000-2001 quando abbiamo iniziato. Quindi ci siamo rivolti più al teatro, che ci dava più spazio, e lì che abbiamo maturato un altro senso della comunicazione. Comunque abbiamo fermato la produzione, cioè non la produzione ma il fatto di mostrare l'opera, abbiamo rinunciato. Che tipo di distribuzione state pensando per questo lavoro? Ma noi non avremo nessuna difficoltà a lavorare con le distribuzioni, notizie importanti, solo che ne so, facendo qualche telefonata, anche i distributori che vanno per la maggiore, non è che ci hanno chiesto come il film, ci hanno chiesto se è la nazionalità italiana, così risparmio il 30% sulle tasse, non so di che cosa. Ecco, questo è il livello di parte della distribuzione di oggi. Penso a risparmiare il 30% senza sapere nemmeno come il film, come alcune film commission che ci offrono dei soldi e ci andiamo a girare nelle loro regioni, senza però nemmeno voler vedere il film, ci fidiamo, ci rispondono, ma i soldi non vanno accettati. L'ultima battuta del film, fissatevi in quel posto i soldi, era valida 20 anni fa e valida anche oggi. Quindi noi non accettiamo soldi da chi non condivide un progetto. Noi speriamo di uscire quando sarà finita questa distanza tra chi vede nelle sale. Però ecco, vorrei dire una cosa, un film che è stato così amato dalla critica, se non dovesse uscire, insomma, il problema lo dovrebbe porre proprio la critica. Non si può fare un lavoro a metà, la critica se segue un film perché è bello deve informarsi anche se esce o no, non possiamo lasciare le cose a metà, altrimenti pure noi avremmo fatto mezzo film, tutto qua. I registi Flavia Mastrella e Antonio Rezza sul loro film Samp, l'epopea rituale di un killer che uccide le tradizioni, al cinema da sabato 27 novembre 2021. Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 62esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 20 al 28 novembre 2021, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno. Per chi non lo conoscesse, anche se è un festival storico, raccontiamolo. È il festival più antico del mondo in ambito documentario e il più importante d'Italia. È stato fondato nel 1959 a Firenze, quindi ha un prestigio enorme. La nuova edizione, che è la mia seconda da direttore artistico, un po' anche la mia prima, visto che l'anno scorso, per tutti i motivi che ben conosciamo, il festival è andato direttamente online. Ora lo faremo in presenza in molte sale della città, a cominciare dal Cinema La Compagnia, poi dallo Spazio Uscieri e il Cinema Stance. Abbiamo 80 film in programma, un programma molto articolato che si compone di un concorso internazionale di 12 film, un concorso nazionale con 7 documentari italiani che rappresentano il meglio della produzione nazionale e tutta una serie di sezioni collaterali non competitive che presentano documentari provenienti da tutto il mondo che sono un po' il meglio di quanto abbiamo visto in un anno intero di lavoro di selezione. Come si articolerà in giorni, orari e sale? Cominciamo sabato 20 novembre al Cinema La Compagnia, abbiamo subito una serie di proiezioni importanti, alle 18 c'è Caveman, il gigante nascosto di Tommaso Landucci e alle 20.30 ci sarà il nostro film d'apertura che è Betsuga Diaries o Diarios de Otsoga, film portoghese, co-diretto da Maureen Fazendero e Miguel Gomes che è transitato dal Festival di Cannes e che inaugura il festival con la sua prima nazionale. Il giorno successivo il programma si fa ancora più intenso, si aprono tutte le sezioni successive, si coinvolgono tutti gli spazi della città, compreso anche il Teatro Cantiere Florida, per una nuova collaborazione con Murmuris, dove presenteremo alcune opere sempre documentarie ma d'ambito più teatrale, come Zona Limite sul lavoro di Eugenio Barba e il progetto Castellucci di Nicola Clotz, Elisabeth Perceval, che sono i nostri ospiti di punta con la retrospettiva che abbiamo organizzato in loro onore, dedicata appunto a Romeo Castellucci. Oltre ai nomi che ci hai fatto, sono previsti anche altri autori e autrici? Ce ne sono tanti, in particolare ribadisco appunto la presenza di questi due registi, la coppia francese Nicolas Clotz e Elisabeth Perceval, a cui dedichiamo un lungo focus perché in Italia i loro film sono stati visti pochissimo, dico solo che a dicembre a Parigi il Centre Pompidou dedicherà loro una personale. Noi li abbiamo scelti perché sono pienamente in linea con una, chiamiamola, direzione non solo artistica ma proprio editoriale del festival, che è quella che insomma è cominciata con la mia nomina, ovvero di spalancare le frontiere del cinema documentario a tutte le commissioni, per cui non sono dei registi che possiamo definire propriamente documentaristi, ma hanno fatto film di finzione anche con grandi attori e attrici francesi come la Binoche o Matteo Malric, hanno fatto dei documentari anche molto militanti da un certo punto di vista, perché il loro film documentario più famoso è girato nella giungla di Calais, e hanno fatto dei film sul teatro, come vi dicevo, ma anche delle opere installative, quindi spalancano il loro linguaggio a tutte le commissioni. Un altro personaggio di grande importanza che abbiamo invitato al festival per un premio, che è il premio di energia rinnovabile tributato a Michelangelo Frammartino da CNA e Enegan, è appunto quello che oggi possiamo dire è uno dei nostri registi di punta del panorama nazionale, che è tornato al cinema dopo 10 anni, dopo il grande successo delle 4 volte con Il Buco, presentato quest'anno a Venezia, che sarà nostro ospite per una masterclass, per un'esposizione dei suoi disegni, quasi gli storyboard che lui realizza a mano per i suoi film, e poi per ricevere questo premio mercoledì 25. Come vi siete orientati nella scelta dei titoli? E ci siamo orientati in quella che è un'altra giungla, non quella di Calais, ma quella dei tantissimi film che riceviamo nel corso dell'anno attraverso il bando che apriamo in primavera e che chiudiamo ad agosto. Abbiamo ricevuto oltre 1000 opere, le abbiamo viste tutte, non solo io naturalmente, ma un comitato di selezione molto agguerrito in questo senso, molto preciso, più direi almeno altre 400 viste scrutinando il lavoro fatto dagli altri festival internazionali già a partire da gennaio, febbraio di quest'anno. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Sul sito festivaldeipopoli.org trovate il programma completo del festival, la possibilità di scaricare la brochure in PDF che poi gli ospiti, gli spettatori e le spettatrici del festival troveranno fisicamente nelle varie sale, e quindi avere il calendario completo a disposizione per poter godere al meglio di una programmazione, come dicevo, ampia e che sarà in parte anche fruibile a distanza grazie al sito MyMovies e alla piattaforma quindi di streaming, all'interno della quale presenteremo circa 20 di film scelti tra le varie sezioni del festival. 62esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze e online dal 20 al 28 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. A presto! Grazie, grazie mille, a presto. Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 20esima edizione del RIF, Roma Independent Film Festival, in città e online dal 18 al 26 novembre 2021. Ben trovato. Buongiorno, ben trovati a voi, grazie. Per chi non lo conoscesse, cos'è? È un festival di cinema internazionale dove per una settimana vengono presentate circa 100 opere da tutto il mondo, e abbiamo quest'anno 21 anteprime mondiali e 9 anteprime europee. Diversi paesi che partecipano al RIF, naturalmente l'Italia fa un po' la parte un po' più grande perché abbiamo circa 25 cortometraggi, 6 documentari e 4 lungometraggi, quindi un festival che presenta lungometraggi, documentari, corti, abbiamo anche un concorso per le sceneggiature. Saranno vari luoghi quest'anno? Sì, abbiamo, oltre al Cinema Aquila, che rimane insomma la location principale, il Cinema Troisi, dove presenteremo 2 programmi, e poi lo spazio della Wigil qui a Trastevere, e le biblioteche, la Biblioteca Roma Mameli e la Biblioteca Collina della Pace, dove presenteremo delle masterclass e degli incontri con gli autori. La parte online sarà uguale a quella in presenza? Diciamo al 99% sì, alcuni lungometraggi, 2 o 3, non siamo riusciti a presentarli online sulla piattaforma di MyMovies perché erano proprio anteprime europee e è stato un po' difficile prendere i permessi, però ecco, abbiamo tanti registi qui a Roma che verranno a presentare il loro film e quindi potremo vederli al cinema. Ecco, a proposito degli ospiti in presenza, ce ne parli? A parte la giuria, che è molto ricca, io comincerei con Willem Spiek, il direttore della sezione Panorama della Berlinale, che sarà qua a Roma il 25 per la chiusura. Parto dalla fine, come puoi vedere, no? Verrà il 25 a presentare il film Miguel War, che ha vinto il Teddy all'ultima festival della Berlinale. Poi abbiamo la regista e attrice indiana Vyaya Jena, Sara Carini, la regista afghana, che presenterà anche qui il suo lungometraggio fuori concorso. Poi tra gli stranieri ancora Anja Strelek, una regista di documentari e coordinatrice del Festival Internazionale del Film di Bruxelles, Gergely Poarnok, Karl Haber e l'attore Davide Mancini, e Laura Buffoni, critica e produttrice. E poi ci sono tanti registi che vengono a presentare i loro film, ma soprattutto registi che abbiamo già visto nelle scorse edizioni, per esempio Gregor Jaroszuk dalla Polonia, che vinse il RIF nel 2014 con il suo primo lungometraggio e quest'anno torna a presentare il suo secondo film, che è Dear One. Poi anche Ian England dal Canada, che presenta il suo secondo lungometraggio Sam, e poi per la Spagna abbiamo Borja de la Vega per il lungometraggio Mia e Moi, e poi tra i documentari abbiamo El Fulgor, un documentario argentino di Martin Farina, anche lui presente, e poi abbiamo un documentario molto bello, anche qui di un autore che era già venuto al RIF, Héctor Carré dalla Spagna. Il documentario si intitola Clown Planet, con tra l'altro Patch Adam, e quindi tutto un percorso che fanno questi clown in un gruppo. Sono dei clown attivisti che si occupano nei campi profughi in Palestina e anche in altre regioni per coinvolgere i bambini nel circo e alleviare, insomma, la vita che sappiamo benissimo che tipo di vita conducono questi bimbi in questi campi. Come saranno strutturate queste nuove giornate? Ma in genere un po' come gli scorsi anni, ovvero i cortometraggi stranieri e documentari nel primo pomeriggio, e poi la sera partiamo con i lunghi italiani, i lunghi stranieri e qualche documentario. Come si distribuiranno per le varie sale? Abbiamo due sale al Cinema Aquila, da venerdì 19 a giovedì 25, e poi invece alla Sala Troisi, il film d'apertura, che è La Santa Piccola, che è stato al Festival di Venezia quest'estate, e poi invece sabato alle 13, sempre alla Sala Troisi, abbiamo una sezione di cortometraggi italiani. Per i dettagli ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, i dettagli, ecco, sul sito riff.it potete trovare tutto il programma in PDF, ma anche tutte le schede dei film con le sinossi, le biografie, i trailer, le foto, c'è un po' tutto, sia in italiano che in inglese. Approfitto per ricordare anche un ultimo incontro il 24 novembre al Cinema Aquila, una giornata dedicata al cinema nero americano, l'abbiamo intitolata Black Film Matter, e qui abbiamo due lungometraggi, I'm Fine, Thanks for Asking di Kelly Cali, che sarà presente qui a Roma, e poi fuori concorso Judah and the Black Messiah di Sasha Kink, che ha vinto due premi Oscar, tutti rigorosamente in lingua originale con i sottotitoli in italiano. 20ª edizione del RIF, Roma Independent Film Festival, in città e online dal 18 al 26 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. A presto! Grazie a voi, ci vediamo al cinema allora, in presenza finalmente. Grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.